ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Seconda puntata. Un giorno che sdraiato sulla paglia guardavo i pali di sostegno e pensavo che parole nuove dovevo scrivere alla ragazza, venne Chizzarri a dirmi che il tenente Cenci aveva telefonato che andassi da lui a far due chiacchiere. Infilai il camminamento che portava al suo caposaldo. Mi pareva di essere al paese, come quando si va da una contrada all'altra per trovare un amico a far due chiacchiere all'osteria. Ma dal tenente Cenci era differente. Avevo una tana tutta bianca, scavata nel gesso, mentre le nostre erano nere. C'erano dentro un lettino ben rifatto, con le coperte pulite senza una grinza, un tavolo con sopra una coperta da campo, alcuni libri e il lume a petrolio che pareva un soprammobile. Vicino all'entrata, in una nicchia, una fila di bombe a mano rosse e nere parevano fiori. Presso il lettino, appoggiato alla parete, il moschetto lucido. Accanto a questo l'elmetto sospeso a un chiodo. Per terra non vi era un filo di paglia o una cicca. Prima di entrare battei e strisciai le scarpe per non portar dentro neve. Il tenente Cenci, sorridente, mi aspettava in piedi nella sua divisa pulita e con il passamontagna bianco risvoltato intorno al capo come il turbante di un indiano. Mi chiese della ragazza. Si parlava di cose belle, gentili, e poi chiamò l'attendente a fare il caffè. Quando stavo per andarmene, mi regalò un pacchetto di Africa e mi diede in prestito un libro che parlava di un aviatore che volava per l'oceano, le Ande, i deserti. Mi accompagnò per le postazioni del suo caposaldo. Guardando il campo di tiro dei suoi mitragliatori, gli fece osservare che doveva sparare un po' più alto e a sinistra, perché le pallottole passavano sopra la nostra trincea e noi non potevamo metter fuori il naso, come era successo una volta che era venuta una pattuglia russa e lui sparava. Ritornando solo alla mia tana, pensavo se avrei trovato posta e che parole nuove dovevo scrivere alla ragazza. Ma le parole nuove erano sempre quelle vecchie. Baci, bene, amore, ritornerò. Pensavo che se avessi scritto gatto per Natale, olio per le armi, turno di vedetta, Beppo, postazioni, tenente Moscioni, caporale Pintossi, reticolati, non avrebbe capito niente. Turn, il piemontese, era il più allegro di tutti, anche se aveva un po' di paura. L'avevano mandato al nostro battaglione per punizione, perché era rientrato in ritardo dalla licenza. In principio non si era trovato bene con noi, ma poi sì, e molto. Quando rientrava nella tana, dopo il suo turno di vedetta, gridava «Ma da mincia, la porta una butta!» Bodei, che era bresciano come tutti gli altri, rispondeva «Bianco o neger?» «Basta calsia!» riprendeva Turn e poi cantava nel suo dialetto «All'ombretta di un cespuglio». Un giorno gli chiesi «Turn, hai ricevuto posta da casa?» «Sì», disse lui, «l'ho già fumata tutta». Turn, infatti, raccoglieva tutte le cicche, ne levava il tabacco e con le lettere che riceveva da casa per via aerea faceva cartine. Lui così fumava sempre e faceva in modo che da casa gli scrivessero sempre per via aerea per avere carta sottile. Giovanin, invece, ogni volta che gli capitavo a tiro mi chiamava in disparte. Mi strizzava l'occhio a sottovoce e mi chiedeva «Se gemma giù, gherivaremo a baita?» Perché lui era certo che io sapessi come sarebbe andata a finire la guerra, chi sarebbe restato vivo, chi morto e quando. Così io rispondevo con sicurezza. «Sì, Giovanin, gherivaremo a baita». Secondo lui, dovevo anche sapere se avrebbe sposato la sua ragazza. Qualche volta gli dicevo che doveva stare attento agli imboscati. Si appollaiava nella sua nicchia vicino alla stufa e con gli occhi mi ripeteva: «Sergent Maggiù, che arriveremo a baita». Pareva che fra noi due vi fosse un segreto. Bel tipo era anche Meschini. Era lui che faceva la polenta la sera. Mescolava con energia le maniche della camicia rimboccate fino al gomito, una goccia di sudore per ogni pelo di barba. Si vedevano i muscoli delle braccia, del viso irrigidirsi, si piantava a gambe larghe. Così mescolava la polenta Meschini. Pareva vulcano che batteva sull'incudine. Raccontava che quando era in Albania la tormenta faceva bianco il pelo dei muli neri e il fango cambiava in neri i muli bianchi. Quelli che avevano pochi mesi di naia lo stavano ad ascoltare increduli. Era un ex conducente, odorava ancora di mulo. Sua barba era pelo di mulo, la sua forza era di mulo, la guerra la faceva come un mulo. La polenta che mescolava era mangime di mulo. Aveva il colore della terra e noi eravamo come lui. Anche il tenente Moscioni, che comandava il caposaldo, era come noi. Riposava lavorando come i muli, scavava camminamenti con noi durante il giorno e veniva con noi di notte a portare reticolati davanti alla trincea, a fare postazioni, a prendere pali tra le macerie delle case, e mangiava polenta come mangime di muli. Ma lui aveva una cosa che noi non avevamo. Nello zaino nascondeva pacchetti di sigarette popolari e Milit, che fumava di nascosto nella sua tana. A noi invece passavano Macedonia ed era come fumare foglie di patata. Moreschi, il caporal maggiore dei mortai da 45, voleva cambiare Macedonia contro Milit, ma il tenente non ci stava nemmeno a due contro una. Però, a dire il vero, Moreschi qualche Milit se la fumava sempre. La notte di Capodanno vi furono i fuochi artificiali. Diavolo, se era freddo. Cassiopea e le Pleiadi brillavano più che mai sopra le nostre teste. Il fiume era gelato completamente e ogni mezz'ora bisognava dare il cambio alle vedette. Alla sera ero andato con il tenente sino alla postazione del sergente Garrone. Lì si giocavano alle carte i soldi della Deca. Fuori la vedetta stava vicino alla mitragliatrice. La pesante sporgeva la canna verso un campo di granone indurito dal gelo. Pareva una capra, tanto sembrava magra, la pesante. E sotto la pancia aveva un elmetto di brace viva. La vedetta si grattava. I muli avevano le arpete e lui la scabbia. Ritornando verso il caposaldo pareva proprio di andare verso casa nostra. Il tenente volle tirare un colpo di pistola per vedere se le vedette stavano allerta. La pistola fece clic. Io allora provai a tirare un colpo di moschetto e il moschetto fece clic. Mi disse infine di gettare una bomba a mano e la bomba a mano non fece nemmeno clic. Sparì nella neve senza fare alcun rumore. Diavolo, se era freddo. Dopo, verso mezzanotte, venne la sagra. D'un tratto pallottole traccianti mandavano a pezzi il cielo. Pallottole di mitragliatrice passavano sopra il nostro caposaldo miagolando e davanti le nostre trincee scoppiavano i 152. Subito dopo i 75-13 e i mortai da 81 di Baroni laceravano l'aria e i pesci nel fiume. Tremava la terra e sabbia e neve colavano giù dai camminamenti. Nemmeno nel Bresciano, nel giorno della sagra di San Faustino, s'udiva un baccano simile. Cassiopea non si vedeva più e i gatti chissà dove erano andati. Le pallottole battevano sui reticolati mandando scintille. Improvvisamente tutto ritornò calmo. Proprio come dopo la sagra tutto diventa silenzioso e nelle strade deserte rimangono i pezzi di carta che avvolgevano le caramelle e i fiocchi delle trombette. Solo ogni tanto si sentiva qualche fucilata solitaria e qualche breve raffica di mitra come le ultime risate di un ubriaco vagabondo in cerca di un'osteria. Tornarono a brillare le stelle sopra le nostre teste e i gatti a mettere il muso fuori dalle macerie delle case. Gli alpini rientravano nelle tane. Sul Don, nei buchi delle esplosioni, l'acqua riprendeva a gelare. Ero assieme al tenente e guardavamo le cose nell'oscurità e ascoltavamo il silenzio. Sentimmo che Chizzarri veniva in cerca di noi. «Signor tenente, vi vogliono al telefono», disse. Rimasi solo e guardavo i reticolati a metà sepolti nella neve, le erbe secche sulla riva del fiume immobile e duro, e sull'altra riva indovinavo nel buio le postazioni dei russi. Sentii una nostra vedetta tossire e un passo lungo e felpato come quello di un lupo. Il tenente ritornava. «Cos'era?» dissi. «È morto Sarpi», rispose. Guardai nuovamente il buio e ascoltai di nuovo il silenzio. Il tenente si curvò nella trincea, accese due sigarette e ne passò una a me. Mi sentivo allo stomaco come un calcio di fucile e la gola chiusa, come se avessi da vomitare qualcosa e non potessi. Tenente Sarpi. Attorno a me non c'era nulla, nemmeno le cose, nemmeno Cassiopea, nemmeno il freddo, solo quel dolore allo stomaco. «È stata una pattuglia», disse il tenente. Entrò nel suo caposaldo dalle spalle e penetrò nella trincea. Uscendo di corsa dal suo ricovero alla curva di un camminamento, si prese una raffica in petto. Hanno portato via anche un conducente della nostra compagnia che stava spalando la neve dai camminamenti. Andiamo a dormire ora. Buon anno, Rigoni. Ci stringemmo la mano. Come tutte le mattine, quando venne l'alba, andai a dormire. Come sempre mi sdraiai sulla paglia che una volta era stata il tetto di un'isba, con le scarpe, le giberne, il passamontagna. Mi tirai sopra il pastrano con il pelo e, guardando i pali del bunker, mi addormentai. Come al solito, verso le 10, Juanin mi svegliò per spartire il rancio. Era speciale quel giorno. Patate in umido, carne, formaggio, vino, e come sempre nel percorso dalle cucine al caposaldo s'era gelato. Vedendo il rancio speciale, mi ricordai che era Capodanno e che nella notte era morto il tenente Sarpi. Uscii fuori dalla tana. Il sole mi fece vedere tutto bianco. Poi, andando piano per i camminamenti, mi portai nella postazione più avanzata sotto i reticolati. Da lì guardai le peste del battaglione russo che aveva attraversato il fiume a 100 metri da noi. Tutto era silenzio. Il sole batteva sulla neve. Il tenente Sarpi era morto nella notte con una raffica al petto. Ora maturano gli aranci nel suo giardino, ma lui è morto nel camminamento buio. La sua vecchia riceverà una lettera con gli auguri. Stamattina i suoi alpini lo porteranno giù con la barella verso gli imboscati e lo poseranno nel cimitero. Lui, siciliano, assieme a bresciani e bergamaschi. Eravate contento, signor tenente, dei mitraglieri, anche se bestemmiavano quando ordinavate di pulire le armi, mentre a voi non piaceva sentir bestemmiare. La sera venivate nella nostra tana. Prima dicevamo il rosario, poi cantavamo. Poi bestemmiavamo. Allora, tenente Sarpi, ridevate, poi dicevate parolacce in siciliano. Ora, a 100 metri da qui, vi sono sulla neve le tracce della pattuglia. Parlava sovente del mio paese. Mi guardava fisso con quegli occhi piccoli e neri. Juanin chiedeva al tenente Sarpi: «Quando arriveremo a Baita, sciur tenente?» «Nel 48, Juanin, nel 48». Juanin strizzava l'occhio, ritirava mesto la testa fra le spalle e si allontanava borbottando. Il tenente rideva, lo chiamava e gli dava una popolare. «Questa notte il pattuglione russo è passato di là e lui era già morto, con la neve che gli entrava nella bocca e il sangue che gli usciva sempre più piano, finché si gelò sulla neve. Nella sua nicchia, vicino alla stufa, Juanin mangerà il rancio e penserà che arriveremo a Baita. Camminavo solo per i camminamenti. Mi fermai accanto a una vedetta e non dissi niente. Guardai da una feritoia la neve sul fiume. Non si vedevano più le peste della pattuglia, ma io le avevo e le ho ancora dentro, come piccole ombre sulla neve di luce ghiacciata. Andai verso la squadra del baffo sull'estrema destra. Era il posto più tranquillo e sicuro del caposaldo dove il villaggio si diradava tra orti e cespugli. Da quella parte si preparava una postazione per la pesante e il tenente Moscioni e io avevamo passato parecchie ore lavorando di notte a disporre i sacchetti di terra. In una casetta quasi intatta una sera trovammo un'ancora. Ordigno strano per noi alpini. E quella piccola isba a un unico ambiente divenne per noi l'isba del pescatore. Camminavo pensando al pescatore dell'isba. Dove sarà adesso? Lo immaginavo vecchio, grande, con la barba bianca come lo zio Jeroska dei cosacchi del Tolstoj. Da quanto tempo avevo letto quel libro? Ero ragazzo nel mio paese e il tenente Sarpi è morto stanotte. Cos'hai, sergente Maggiù? Che bel sole oggi, vero? Buon anno, sergente Maggiù! Buon anno, Marangoni! Da che parte è l'Italia, sergente Maggiù? Laggiù, vedi? Laggiù. Laggiù. Laggiù. La terra è rotonda, Marangoni, e noi siamo fra le stelle. Tutti. Marangoni mi guardava, capiva tutto e taceva. E ora anche Marangoni è morto. Un alpino come tanti. Un ragazzo era, anzi un bambino. Rideva sempre e quando riceveva posta mi mostrava la lettera agitandola in alto. È l'amorosa, diceva. E ora anche lui è morto. Una mattina, smontato all'alba, era salito sull'orlo della trincea a prendere la neve per fare il caffè e vi fu un solo colpo di fucile. Piombò giù nella trincea con un foro in una tempia. Morì poco dopo nella sua tana fra i compagni e non mi sentii il cuore di andarlo a vedere. Tante volte si era usciti all'alba, anch'io parecchie volte, e nessuno sparava. Anche i russi uscivano e noi non sparavamo mai. Perché ci fu quel colpo quella mattina? E perché morì così Marangoni? Forse durante la notte pensavo i russi avranno avuto il cambio e questi saranno nuovi. Bisogna stare attenti e uscire con l'elmetto, dissi per le tane. Avrei avuto voglia di appostarmi con il fucile e aspettare i russi come si aspetta la lepre. Ma non feci nulla. Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.